Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Michele Tosoni in regia e buonasera agli ospiti, ai partecipanti, ai conduttori musicali di stasera. Buonasera Salvo Ruolo, come stai? Bene? Bene, grazie. Non hai percorso molti chilometri, però sei un cittadino del mondo, possiamo dire questo? Del mondo. Dalla Sicilia sei venuto a Padova, ormai sei padovano d'adozione. Certo, sì, assolutamente sì, anche se io il Veneto l'ho sempre frequentato per lavoro, per il lavoro che facevo prima. Comunque è una terra che si associa ai siciliani molto bene. Ho scoperto che ci sono molti siciliani adottati da veneti e viceversa. Certo, certo, quindi è una cosa molto positiva. È una cosa che mi fa assolutamente piacere. Poi sono padovano ormai a tutti gli effetti perché tutti i miei parenti sono qua. Ho il piacere di avere la famiglia di mia moglie che vive qua, per cui quindi mi sento veramente per metà veneto, insomma. E ti senti non per metà, ma totalmente musicista, quello sì. Ci proviamo anche lì, dai Maurizio, ci proviamo. Certamente la passione ti fa fare cose che altrimenti lasceresti. Ecco, la passione, ma no, la passione ti fa fare cose positive, però io ho sentito il disco che adesso presenterete, Vivere ci stanca, e queste atmosfere che ricordavano molte cose americane, io l'America l'amo praticamente. Sappiamo che tu hai iniziato sentendo Born to Run del Boss, chiaramente, sì, la tua carriera. Sì. Possiamo dire così, sì, Salvo? Sì. Come è cominciata la tua carriera, il tuo amore per la musica? Ma io intanto ho avuto la fortuna o la sfortuna, perché quando si hanno dei musicisti che sono direttori di orchestra dentro casa è un po' difficile andargli dietro, starci dietro, perché ti costringono a fare delle cose. E io ho avuto uno zio che è stato, diciamo, quello che mi ha introdotto alla musica. E via. Mi ha regalato una chitarra e poi ho visto sto disco con questa copertina strana, con questo uomo con ste corde e attorno c'era un po' di legno chiaro. Ho detto ma che cos'è? L'ho messo su e mi sono innamorato un po' anche di queste cose di cui parleremo stasera, e quello è stato il motivo per cui ho imbracciato la chitarra che mio zio mi aveva regalato. Ecco, versando la chitarra suonata molto male. Ma insomma, adesso la suoni molto bene. Io ho sentito prima le prove che hai fatto con Alberto, che è qui presente. Poi salutiamo anche Alberto. Buonasera Alberto. Ciao, grazie. Come stai? Bene? Bene, benissimo. Ti accompagnerà Salvo stasera? Accompagnerò Salvo, sì. Con l'armonica? Faccio da badante. Anche con un'armonica, mi pare. Con l'armonica, perfetto. Sì, come si usava ai tempi degli hobos. Esatto. Adesso non si usa più l'armonica. Ma qualcosa si usa ancora. Sì, sì. Sarà digitale. Ecco, sì. È virtuale. Non c'è, non la soffia più nessuno. Adesso è tutto virtuale. Ma perché tutto anche virtuale? Le chitarre. No, le chitarre no. Ma sì, ho visto dei programmini con dei ragazzi che fanno finta. Io facevo finta quando ero piccolo col battipanni. Ricordo che ascoltavo i dischi e col battipanni facevo finta di avere la chitarra in mano. Bene, c'è anche Roberto stasera che sta facendo il tecnico servizio fotografico per Vogue. Esattamente, sì. Bene. Molto positivo. Ovviamente gratis. Ovviamente gratis. Io devo ringraziare Alberto perché quando mi sono trasferito qua nel 2001 l'ho incontrato e mi è rivenuta la voglia di suonare, perché se non fosse stato per lui ancora chissà dove erano ste chitarre, sta voglia. Te l'ha fatta tirare fuori? Me l'ha fatta tirare fuori. Ha messo un annuncio, ci siamo sentiti. Appena ho sentito le prime tre frasi che ha detto, vabbè, ho capito, ci dobbiamo conoscere. Poi eravamo siciliani, quindi abbiamo parlato subito nella nostra lingua, quindi ci siamo capiti. Siamo capiti abbastanza. Io gli ho detto, ma si scunchiù tutto. E io ho capito, se volesse dire. Immediatamente ho capito che c'era un collegamento che si poteva sviluppare. Esatto, che si potevano sviluppare dei discorsi. Ma si scunchiù tutto o a farina e cassariata. Cioè, traduci appunto. O se tempo perso. Ho capito. Tra metà Veneto, cioè, metà ci Sicilia, sei o ci fai, insomma. Ho capito. Benissimo. Ecco. Quindi c'è stato l'amore, hai cominciato, hai introdotto il discorso della musica e poi si è sviluppato, normalmente è stato questo discorso. Sì, ho messo su delle band, abbiamo fatto un po' di dischi, abbiamo fatto la solita strada che fanno tutte le band a 20 anni, a 25, e poi dopo un po' il lavoro, un po' la passione che non riusciva a trovare i frutti che magari uno pensava, e ho lasciato stare lì le cose. Poi ripeto, nel 2001 ho incontrato Alberto e abbiamo riniziato, e adesso magari ci sarà occasione di parlare. Poi ho letto sulla tua biografia che hai avuto dei contatti anche a Demorai, che è un programma molto importante. Demorai. Sì, adesso metteranno. Abbiamo avuto due contatti. Uno grazie ad Alberto, che nel 2001 mi pare. Nel 2002 c'è stata questa prima passata su Radio 1, e poi adesso a luglio. Sì, ho sentito proprio il 13... voci di corridoio. Eravamo proprio in corridoio. Esatto, eravamo proprio in corridoio. Voci di corridoio, cosa sono questi voci di corridoio? No, niente, metteranno su Demorai. Ho lasciato il demo su Radio 1, passeranno un paio di pezzi di questo ultimo disco, Vivere ci stanca. Certo, è molto positivo, dai. E quindi sì, fa molto piacere, naturalmente, ma mi fa piacere essere qua perché, ripeto, io... devo anche ringraziare un nostro amico comune che è Davide Tosches. Certo, che è venuto qua tempo fa e che tu conosci, sì. Ti ha dato una spinta notevole, ha detto questo è bravo, ha detto al nostro direttore artistico Alberto Pisco, che salutiamo, questo è bravo, e aveva ragione Davide, io vi ringrazio, siete di manica larga, però naturalmente devo ringraziare Davide perché è un ragazzo straordinario, oltre al fatto che ha fatto davvero un disco notevole. Molto bello, sì. Sto addormentandomi da parecchio tempo con il suo CD. E bello, quindi, veramente. Bello anche, oltre come costruzione di pezzi, arrangiamento, anche la copertina bellissima, cioè l'involucro esterno, se mi è consentito il termine. Molto bella, molto raffinata. Certo. E lui si sa che è uno esperto e fa ste robe. È un grafico che ha gusto. E poi ha la bussola sempre puntata in alto, quindi è un ragazzo molto intelligente, è un valido artista. Quindi poi ho letto che hai suonato, ti sei intrattenuto con musicisti tipo gli Avon Travel, Danny Montgomery, e poi è un discorso nato, sviluppato con Dan Stewart, un altro mito del sottoscritto che si sta parlando adesso. Sì, è un mito, guarda, tuo, mio, di Alberto, è un mito di diversa gente, anche di un nostro caro amico Stefano, che sta a Siracusa. Si può sentire via web stasera? Speriamo di sì, dai. Lo salutiamo se ci ascolta. C'era un concerto al Bronson di Ravenna dove suonava appunto Dan Stewart assieme ad Antonio Gramentieri, che è il produttore del mio disco. Del tuo disco, esatto, grande musicista anche quello. Sì, assieme a Diego Sapignoli, J.D. Foster, che è l'ultimo produttore degli ultimi Calexico, diciamo, dei penultimi due dischi del Calexico, che avevano sentito il mio disco e gli era piaciuto parecchio. Siamo stati a cena insieme. È venuta fuori sta cosa. Dan è un personaggio veramente genuino, insomma è un grandissimo artista proprio perché è genuino, e la sua genuinità viene fuori in tutti i momenti. Mi fa: ma tu sei quel tipo là che io fa un bicchiere e l'altro di acqua naturale non gassata. ho capito cosa intendeva. Gli ho detto: senti Dan, non gassata, perché le bollicine mi danno alla testa. Sì, esattamente. Lasciamo stare le bollicine perché c'è qualcun altro che le... Ecco. E allora ho detto: Dan, facciamo qualcosa insieme, dai, sei troppo simpatico, hai mangiato nel mio piatto, io ti ho preso il pesce a te, tu hai detto che la Sicilia ti piace, abbiamo mangiato nello stesso piatto, fa, sei troppo... mi ricordo cosa, insomma, è nata sta cosa così su due piedi, ma adesso abbiamo un carteggio, ci inviamo le mail tutti i giorni e speriamo che vada in porto. È perché un bel progetto. Sì, io ho già mandato, sì, c'è qualcosa di concreto, ho già mandato un paio di demo, a lui sono piaciuti, mi ha detto anche non puoi cantare in inglese perché non ce la fai. Sì, ok. Facciamo sentire il disco, cosa dici? Certo, come no. Apriamo la finestra come sempre facciamo. Abbiamo scelto una traccia. Che traccia ti ricordi? Il numero di traccia che hai scelto? Io direi... Diresti cosa? Ma io direi di mettere su... Aspetta, fammi vedere, dai. Io direi di mettere su Spreco di spazio. Che è la traccia numero? Numero uno. La traccia numero uno, sì. La traccia numero uno. Adesso la sentiamo, bel pezzo. A me è piaciuto subito quando l'ho sentito questa traccia. Questo è l'apertura vera e propria. Sì. Il pezzo numero uno. Sì. E dopo ti chiedo il perché hai messo questo pezzo iniziale, va bene? Va bene. Ok. Il giorno è un palco deserto, è uno spreco di tempo che riempie lo spazio di nulla, di nulla. Col cranio deforme mi specchio di notte nelle pozzanghere nere di odio e catrame, di odio e catrame. La festa di ieri e l'odore del pane non toccano il petto e nemmeno le vene. Interrate, bruciate, l'amore che ti ho dato, l'amore che ti ho dato, l'amore che ti ho dato, mi ha schiantato, mi ha schiantato. Spreco di tempo ed è uno spreco di spazio, è uno spreco di tempo e di spazio, di spazio. Nero all'orizzonte, è nero all'orizzonte, che non si apre mai. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Siamo sempre su Rock Wave e Salvo Uruolo sta scaldando i motori. Salvo, gli stai scaldando i motori. Sì, per fortuna fa tanto caldo, ma abbiamo acqua fresca. Sì, sì, di un certo livello, acqua un po' pesante, come... acqua pesante. Acqua pesante. In ogni caso, parliamo di questo pezzo bellissimo. Quando ho sentito il tuo disco, mi sono subito innamorato di questo pezzo iniziale, perché ho detto, questo qua. E faremo sicuramente noi di Rockway, rispettiamo sempre le promesse, per un mese andrà in onda. Grazie. Un mese, ogni giorno darà in onda in un certo orario. Beh, come mai hai scelto un pezzo così, non estremista rispetto agli altri, estremista nel senso positivo del termine, abbastanza delicato, anche se poi nel finale cambia e dà i presupposti agli altri pezzi che poi verranno? Ma il perché non lo so, certamente c'è un sentire, quando vai in sala di registrazione non sai cosa succederà, e questo io sento che accade alla maggior parte degli artisti che registrano, che hanno però le idee chiare, questo perché dalla complessità forse delle cose che uno ha in testa poi vengono le cose in una maniera naturale, sì. Io con i musicisti ci siamo messi là, è un pezzo fra l'altro, è l'ultimo pezzo nato proprio mentre registravo. Hai messo come in testa la scaletta, sì, però? Come mai? Perché probabilmente gli ultimi figli nati sono quelli che ti piacciono di più. È vero. È nato alle 2 di notte in una stanza d'albergo, ero da solo, ed è nato sto pezzo così. Ero lì, ho detto, vabbè, è nato di getto, lo metto dentro. E poi con Antonio abbiamo deciso insieme di metterlo come primo, perché è il biglietto di presentazione del disco. Bello, bello, sì. E quindi mi sembrava così. A me personalmente piaceva aprire con questo spreco di spazio. Io sono concordo con te, non lo sapevo, adesso me l'hai spiegato, però anch'io mi sono subito fermato. No, poi chiaramente ho sentito anche gli altri. Sono fermato perché mi piaceva. Ed è significativo questo. Quando piace, quando trovi un pezzo immediatamente nella scaletta di un disco, ti fermi immediatamente, vuol dire che è già è una cosa positiva. Certo. Capita spesso che salti una o due tracce per trovarne uno di positivo. Certo. Chiaramente non è sempre così, però può capitare. Certo, e questo non è bello nei confronti dell'artista, però purtroppo siamo uomini, qualche volta dobbiamo scegliere, no? Certo. In realtà l'unica cosa su cui ho riflettuto quando l'abbiamo messo in testa, fra me e me naturalmente, perché la scaletta la fai in 10 secondi, o almeno l'ho fatta e pensata in 10 secondi, l'ho pensato anche come omaggio a quel male di vivere che Jean-Claude Itzot mette nei suoi romanzi. Sì. Perché io sono stato un frequentatore di Itzot, di Jean-Claude Itzot, che non c'è più e mi manca molto. E quindi questo era anche un omaggio, diciamo così, alla sua scrittura. Io ho pensato, tu hai citato questo artista, questo poeta, questo scrittore, però io ho citato anche Lolli, perché anche Lolli aveva questo mal di vivere. I suoi dischi, Canzone di vita, Canzone di morte, che Lolli aveva questo, l'ha sempre avuto. Certo. Io Lolli non lo conosco benissimo, se non ricordo male. Zingoli Felici forse, sì, come, ho visto quello famoso. Esatto. Però lui ha scritto sempre delle cose un po' particolari, è stato lanciato da Guccini, che lo ha introdotto dentro la EMI, e poi era un personaggio schivo, grande successo, non riusciva a sostenerlo, ha cambiato casa discografica, poi la EMI l'ha ripreso grazie a Guccini, un sacco di cose, è un personaggio così. Certo. No, ripeto, conosco quel disco perché è un disco fantastico, certo, molto straordinario. Poi mi pare ha fatto una cover, sì, anche Carboni recentemente, gran bellissimo pezzo, poesia pura, però l'artista in toto non lo conosco. Come ti dicevo, essendoci oggi la musica liquida, sì, come parlavamo domenica, giustamente, sì, questo è una marea di cose, ci sono tante cose, troppe cose, sì, e dobbiamo selezionarle. Non si può ascoltare musica 24 ore su 24, 23 tempo. Ore sì, un'ora per dormire. ci vuole tempo, sì. Ci vuole tempo. 22:30, perfette, e giusto Salvo, alle 22:30 cominciamo alla cavalcata verso mezzanotte, musicalmente parlando. Salvo e Alberto, giusto? Alberto. Ci introdurranno che cosa? Cosa ci fai sentire Salvo per iniziare questo Vivere ci stanca? Allora, questo è il pezzo che più piace a Diego Sapignoli, che è il nostro percussore di pelli. Lui ama definirsi percussionista perché ha avuto anche delle grandissime collaborazioni, il primo fra tutti Marc Ribot, ed è Gelo di Gola, è il pezzo che andremo a fare live adesso. Bellissimo, un pezzo bellissimo. Grazie. One, two, three, four. Quando leggera, nell'aria pesante, seta bianca d'Oriente, prezioso inganno di mente, forse ti gioca il riflesso di questo specchio ingombrante, con non cura si scioglie e del nodo dei suoi capelli, ma il nodo che ho in gola, ma il nodo che ho in gola, no. Non si scioglierà. Senza vedere, tracollo senza sapere, morfina spegni il dolore, ta ta ta ta ta ta, come un revolver fumante, la voglia si incaglia, un tanto il tempo scandisce, la noia che ci attanaglia, si innalza e poi ci abbaglia, ma il nodo che in gola, ma il nodo che in gola, ah no. E privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, sì, parlavamo una cosa molto interessante mentre abbiamo finito il pezzo, c'era questa interruzione del break pubblicitario. La versione di questo pezzo, tu hai detto giustamente Salvo, era più lenta, siamo in dimensione acustica, dal vivo la fate più veloce, ma in ogni caso, anche se la fate più veloce, più energica, è sempre un blues malato, sporco, un testo graffiante, un testo che non ha mezzi termini, perché la caratteristica, come scrive giustamente Blow Up, la musica sì è folk, ma dei testi che spaccano dentro, sì. È così, Salvo? Sì, sì, sì. Quello perché, io se posso dirlo... Dimmi, siamo qua apposta. Io ho un maestro che si chiama... Per me lo è, lui adesso storce la testa, abbiamo fatto una volta... È qua, che suona la chitarra con me. Ah, ecco, è lui presente. Alberto Mancinelli, esatto. Lui citiamolo scrive, qualche volta. Alberto Mancinelli scrive, secondo me, molto bene. E ricordo una volta abbiamo fatto... Hai fatto le scuole. Non sbaglia un verbo. Se avrebbi capito bene, non sbaglia mai. Sì, ho visto, sì. E quindi per noi le parole sono importanti, soprattutto in questo periodo in cui sembra che parlare non sia importante. E allora le parole devono servire a smuovere qualcosa. Pasolini lo ha fatto, ovviamente non sto cercando, io umilmente ho letto, mi sono accostato alle opere di questi grandi, però ovviamente bisogna accostarsi ai più grandi per capire che cosa quali sono le parole a cui tu vuoi riferirti nella canzone? Perché ovviamente, come tu mi insegni e come sai, sia il cinema ma anche la letteratura si coglie a piene mani da lì per poter scrivere, e le parole sono forti perché devono arrivare alla pancia per poter far pensare poi il cervello. Ecco, hai detto la cosa giusta, devono arrivare alla pancia per poter poi dare al cervello la possibilità di ragionare. Alla pancia, perché nello stomaco, arrivi nello stomaco. E questa è la caratteristica dei tuoi pezzi, secondo me. Musicalmente sono scarni, ma non sono scarni, sono scarni qua, perché chiaramente siamo in dimensione assolutamente acustica. Ma nel disco, ragazzi, nostri ascoltatori, non sono per niente scarni. Sono complicati, complessi, schizofrenici musicalmente parlando, nel senso positivo del termine. Sì. Io la vedo così, insomma. Sì, io sono abbastanza schizofrenico la notte, quindi... Mia moglie dice che mi sveglio nella notte e faccio... No, vabbè, a parte... No, stiamo scherzando, chiaramente. Però sì, musicalmente c'è questo. E giustamente Alberto citava Tim White Rope, mentre il microfono erano spenti. Il microfono era spento. Certo. E Tim White Rope avevano dei testi duri, senza mezzi tempi, ma avevano una musica incredibilmente scarna, ma una scarna che ti entrava dentro immediatamente. Sì, sì, sì, una roba incredibile, impossibile. Se posso citare me stesso, dimmi. Una sera sempre... dopo che ci siamo bevuti un po' di acqua, non gassata. Sì, quella pesante, sì, esatto. Sì. Acqua distillata. Acqua distillata. Acqua distillata. Per batterie scariche. Per batterie scariche. Esatto. Io e Alberto ci siamo... Io gli ho detto, ma secondo me, Alberto, i Tim White Rope, se l'universo avesse una pancia e potesse avere la voce... Sarebbero loro. Lo so. Perché la voce di Guy Kaiser, che fa l'altro, sei bravissimo, grandissimo, che fra l'altro non si capisce uno così perché faccia ancora il biologo, cioè fa il biologo. Semplicemente perché non ha venduto niente, praticamente. Ne ha venduti pochi. Bisogna fare qualcosa. Secondo me lui fa questo perché deve farci piangere qualche volta ripensando ai suoi dischi. Certo. Comunque questa voce abrasiva, no, l'acqua pesante per... siamo a posto, che ti colpiva alla pancia, esatto. Quindi sì, io penso che i pezzi debbano colpire in qualche modo. Alberto ha detto una cosa giusta prima: purtroppo c'erano stati prima i Velvet Underground, e con tali maestri prima, Tim White erano bravissimi, però c'erano i Velvet prima, ragazzi, quindi sono arrivati dopo, purtroppo per loro. Questo tutto, sì, però hanno condiviso, diciamo, la stessa non curanza da parte del pubblico, nel senso che è vero. I Velvet Underground non hanno venduto un disco allora continuano però a venderli adesso, cioè 40 anni dopo. È vero. E Tim White Rope credo che adesso, più o meno, c'è stato un movimento di nicchia, insomma, sì, è vero. E il loro seguito, però ecco, come i Velvet non hanno avuto il giusto riconoscimento che meritavano, insomma. Tu hai detto una cosa giustissima, difatti Lou Reed ha cominciato a vendere quando David Bowie gli ha prodotto i dischi. Esatto, quindi, Lou Reed quello il motivo. È iniziato a fare il solista, insomma, ma con i Velvet effettivamente non avevano venduto niente, nonostante ci fosse Andy Warhol alle spalle o il loro mecenate assoluto, però, però alla fine il primo album dei Velvet, a proposito di dischi su un'isola deserta, esatto, è imprescindibile. Uno non può non sentire i Velvet se fa un genere di questo, se percorri questa strada, salvo, non puoi non sentire i Velvet. Assolutamente. Io ascolto rapito da voi due, che siete veramente due. Vabbè, ora finisce. Fai parte anche te della comitiva, non c'è Roberto facendo la parte tecnica. Non scherzo, io davvero voglio dirlo. Quando ho conosciuto Maurizio, perché è la verità. Insomma, io non conoscevo gente così preparata a Padova, a parte qualche amico, insomma, quindi questo mi fa solo che piacere davvero. Ma è Rock Wave che ha questa idea, il parlare, il allargare. Il musicista suona, sì, ma deve parlare delle sue attinenze musicali, deve parlare perché fa i pezzi, la sofferenza per fare un pezzo, che non è stato semplice incidere un album, Salvo. No, anche se comunque è stato inciso in 4 giorni, Maurizio. Ah, perfetto, sei stato velocissimo. Sì. Guarda, quando ci siamo trovati con Antonio e con Rigo e con Diego e anche con Franco Beat, che... Li citiamo i musicisti un'altra volta, abbiamo detto così. Come no? Vai. Allora, Antonio Gramentieri, che suona le chitarre elettriche e il banjo e un miliardo di altre cose di con altre le corde, cose. Anche con le corde, scope con le corde, tutto suona. Io le chitarre acustiche e qualche elettrica l'ho fatta anch'io, diverse elettriche. Poi c'è il grande Diego Sapignoli, che è un grandissimo, secondo me è veramente uno dei percussionisti migliori che si trovino oggi in Italia. le sue collaborazioni sono svariate, sono eccezionali. Certo. Poi Righetti, che è un ex Rocking Chair, quindi esatto. Quindi chi ama un certo genere non può prescindere dai Rocking Chair. Esatto. Quindi tanto preferito in Italia. Esatto. Anche suonato con Ligabue, anche se non è un commerciale, però, sì, però fai i primi è due sempre della zona. Sequenze. Possiamo dire sempre della sì, zona, sempre, la zona delle piadine. Esatto. Rigo Righetti, poi c'è stato Massimo Sbaragli, che è un grandissimo. Suona il contrabbasso, è un contrabbassista davvero raffinato. Poi ci è venuto a trovare in studio mentre registravamo Michele Truglio, che è un regista che ha curato alcuni video anche per Giovanotti, che è un siciliano di Catania. Sì. Uh-huh. Appena ha visto che ero lì mi ha detto: ah, ma anche tu sei gay allora? Mi fa. E allora gli ho detto: no, no, insomma, siamo siciliani, qua come te ci siamo trovati, e lì è nata sta cosa. Ho detto: no, voglio fare un pezzo. E lui è quello che suona l'acustica in Spreco di Spazio. E poi c'è Franco Naddei, che è stato anche che è il tecnico del suono, ed è quello che ha fatto anche il mastering, che ritengo davvero un ragazzo di grandissima qualità. Ok, abbiamo sentito, abbiamo parlato dei musicisti, adesso parliamo nuovamente con la musica. Cosa ci fai sentire, Salvo, adesso? Adesso facciamo un pezzo che si intitola Notte d'Inganni. Anche quello un bel pezzo, un tosto pezzo nel disco. Come lo fai qua, Salvo? Lo facciamo sempre con questa anda acustica un po' rallentata, non dico alla Clexico, ma leggermente rallentata. Ma gliela mettiamo, anche mettiamo, perché Convertino è uno dei nostri eroi, e quindi ci proviamo a farlo. Perfetto, grazie. Perfetto. Grazie. Questa è Notte d'Inganni. Okay. One, two, three, four. Che danza sul muro della stanza, notte di vento che sbatte contro il vetro, le corre in bomba nella testa. Le corri in bomba nella testa. Madri sputate, lacrime di sangue, cedo alla carne il mio veleno infetto, le mani alzate contro il cielo, le mani alzate contro il cielo. Padri, cercate per tre notti due pietre sopra ai nostri orti. Madri, piangete per tre notti due rose sopra ai nostri occhi. Di 12 anni e forse un giorno, notte d'inferno di croci e di candele. Notte d'inganni, di corpi debuttanti, le corre in bomba nella testa, le corre in bomba nella testa. Padri cercate per tre notti, due pietre sopra ai nostri corpi. Madri piangete per tre notti, due rose sopra ai nostri occhi. Di 12 anni è forse un giorno, padri cercate per 30 anni, due pietre sopra ai nostri corpi. Madri piangete per 30 anni, due rose sopra ai nostri corpi. Di 12 anni è forse un giorno. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, salvo ruolo, Alberto Mancinelli e Roberto che cura un po' l'andamento di tutto. Bellissimo, questo era un pezzo molto bello, versione acustica, versione unplugged, con una certa energia, quella che conta. Il disco ha tanta energia e l'avete sviluppata chiaramente in questa dimensione, ma si sentiva sull'energia, non vuol dire che sia acustico o elettrico, l'energia, certo, esiste sempre. Certo, speriamo che arrivi, grazie. Sì, sì, no, sicuramente arriva, a mio parere, ma arriva sicuramente. Gli ascoltatori di Rockway, certo, sono ascoltatori puntuali, certo, e amano il rock. Preparati. A proposito di ascoltatori, salutiamo la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci ascoltano sempre, sono tre ragazze rock. Mi aggrego al saluto, ecco, benissimo, e un abbraccio a tutte e tre. Bene, Salvo. Allora, abbiamo parlato di questo disco che tu hai fatto in 4 giorni, quindi sì, sei stato molto veloce, anche per motivi economici probabilmente. Cosa dici? Ma sì, in realtà, ovviamente essendo autoprodotto ti pone il problema. Certo. Però posso dirti che i ragazzi sono stati splendidi perché non hanno voluto una lira. Una lira, o un euro. Sì, cioè, il produttore, a parte la sala discografica, la sala di registrazione, perdono. La sala discografica dobbiamo ancora farla. Beh, diciamo, sarà un progetto futuro anche quello. E a parte quello, devo dire, dei signori, oltre che essere delle persone straordinarie, perché queste cose non puoi farle se non hai di fronte persone strutturate, non puoi farle in 4 giorni se non hai di fronte chi ti dice dai, mi hai già fatto sentire il demo, però mi è piaciuto, però dai, proviamo a suonare, e in 3 secondi ti guardi in faccia e capiscono subito dove devi andare. Certo. Questa è la cosa bella di questi musicisti. Sì, ci vuole un collegamento immediato. Sì, un'affinità elettiva. Esatto. Che è fatta di ascolti, ma è fatta di visioni di tante cose. Come dicevo, gli ascolti passati, il background musicale, ma anche la cultura, quella di tutti i giorni, sì, certo, la certo, visione della vita. E quindi questo per me è importante. Per me è importante. Sì, Domenica, tu hai detto una cosa positiva. Non so se possiamo citare quel progetto che porti avanti davanti a, alla scuola dove, dove lavori. È una cosa molto bella che è giusto dire, secondo me. Sì, mi fa piacere dirlo, soprattutto perché i ragazzi che... E ti dirò anche una chicca. C'è un ragazzo che ha fatto il solista, abbiamo fatto un po' di pezzi. Questo è il secondo anno che lo facciamo in una scuola di Montegrotto, alla media di Montegrotto. E abbiamo fatto dei pezzi per rock, per cercare di avvicinare sti ragazzi intanto ad un'attività che li faccia sentire parte di qualche cosa creato anche da loro, perché noi non abbiamo fatto i pezzi pedissequamente così come... No, li abbiamo fatti a modo nostro. E pezzi di, diciamo, di banco di prova non da poco. Un ragazzino di prima media ha fatto tutti gli assoli a partire da Shine On You Crazy Diamond. Abbiamo bravissimo, è stato bravissimo. Diciamo che io sono stato in parte il direttore artistico, ok? Ecco, mettiamola così, perché sono cose che però, per esempio, ha fatto tutti gli assoli di tutte le canzoni che abbiamo fatto, ed è un ragazzino che sabato prossimo verrà a suonare con noi. Voglio che venga con me a suonare, e farà No d'Archiette di Dylan. Ah, però è mica semplice. E Parlami del mare lo eseguirà assieme a me, ad Alberto. Bene. Perché si parla tanto di questi geni giapponesi, ma ci sono anche gli italiani. Ma sporca miseria, cioè, noi in Italia cosa facciamo per avvicinare i giovani alla musica di qualità? Poco. Allora farlo a scuola mi sembrava il palcoscenico. È un'idea molto molto interessante. Grazie. Quando tu me l'hai citata, ne hai parlato. Grazie. Domenica, ho detto, beh, perché no? Si deve citare, perché la gente deve sentire e ascoltare, che anche in Italia, anche a Montegrotto, che qui vicino, si fa un discorso di questo genere. Assieme, devo dire, assieme al grande professor Nalin e a Nausica Scarparo, che sono due docenti straordinari, che mi hanno assolutamente appoggiato in questa cosa. Bene, è una cosa molto positiva, secondo me. Grazie. Sì. Quindi, questo disco, queste tracce che tu hai costruito assieme ad altri, erano frutto di cose che avevi scritto recentemente, per il momento del disco, oppure sono cose che avevi già scritto, avevi lasciato nel cassetto? Sì, c'erano quasi il 60% di cose scritte, e poi idee che sono state mutuate, modificate, il work in progress. Sì, continuo. Continuo, che tu sai senz'altro. Certo. Cos'è? Perché... quando entri in sala hai questi quattro uomini davanti, fai gli accordi, leggi il testo e quello che tu immaginavi fosse una strada poi in realtà diventa tutt'altro. E quindi sono pezzi scritti qualche anno fa e qualche altro invece in corso d'opera all'inizio di registrazione, come dicevamo certo, prima. Certo. Allora facciamo una cosa di questo genere, adesso sono le 22:55. Siamo quasi arrivati alla domanda fatidica dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. Facciamo 3. Facciamo 3, Alberto, cosa dici? Tu non lo sapevi questa domanda, eh? No, ma sono lui sì, salvo 3. Facciamo 5. Lui salvo lo sapeva. Allora, prima di fare questa domanda, quindi ci pensate un pochettino. Sì. Sono generoso, vi faccio pensare. Grazie. Di solito non lo faccio mai, quindi do subito la domanda ai nostri artisti. Ma noi ti seguiamo, quindi sappiamo. Tu lo sapevi. Allora, scegliamo la traccia numero 3. La vuoi presentare un secondo? Ti ricordi il titolo? Te lo ricordi sicuramente? Sì. Abbiamo fuori il libretto. Che qua. Sì, è Bangkok Blues. Fra l'altro verrà messa anche questa su Rai 1 il 13 luglio. È un pezzo anche questo, è un blues, diciamo, malato. Posso dire una cosa? L'ho scelta io, sì. Adesso la sentiamo. Sì. Siamo malati. No, il testo... parla di una ragazza che insomma, ho conosciuto e che insomma, mi è passata vicino, e ho visto la storia di questa ragazza e mi è sembrato così, mi è venuto in mente di scriverci sopra sto pezzo. Benissimo. Nella testa, distesa nel metro, insegna nel bulbo oculare. La luce che lampeggia dilata le parole, è un tribunale sacro, un rito voodoo. Le cicatrici gonfie, le ossa maciullate, ho le budella in mano, le arterie sono bombe. Piscine di mangrovie dal mogio che aprono le ali e volano a Bangkok. Nascosti nei prive a sniffare coca, peyote o mescalina, con un orgasmo chimico vedo la frontiera dei vaffanculo. Tornerò a Bangkok. Sterile madri con gli uteri pulsanti, i feti liquefatti dai raggi ultravioletti. Corri Marta, corri, che li perderai. Una fila di gesuiti ti aspetta sul Mekong. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ci stiamo sempre conversando piacevolmente con Salvo Ruolo e Alberto Mancinelli del suo disco Vivere ci stanca, ma parlavamo di altre cose, parlavamo anche di sport con Roberto a microfoni spenti, della passione di Roberto per il tennis, vabbè, siamo perdere. Allora parliamo invece di questo pezzo, Salvo, in 30 secondi per presentarlo e poi facciamo la solita cavalcata sui dischi da portare su un'isola deserta. Parli di Bangkok Blues. Sì, esattamente, queste sonorità un po' cupe, un po' particolari, questa voce filtrata, fatta sì, in determinata maniera. Sì, in questo pezzo ci suona, che ho dimenticato di citarlo, un altro grandissimo artista che è Denis Valentini, che è un peso massimo anche lui, e ha dato secondo me il suono è il suo qua, veramente ha portato i suoi tamburi, ha portato le percussioni, è davvero un tocco straordinario quello di Denis Valentini. E il pezzo era in cantiere da molto tempo, sì. E invece in sala di registrazione, quando abbiamo notato che andava nella direzione del blues più sporco. Quello delle paludi, sì, di Bangkok, con i coccodrilli del sud-est asiatico che ti fanno vedere i denti, allora abbiamo detto ok, il pezzo deve seguire questa strada, okay. E da lì è nata l'idea di dare alla voce questa caratteristica, sì, questa febbre a 40, sì, esattamente, alla Sparkle Horse, che è un altro artista, sì, un altro, che purtroppo se n'è andato, sì, che purtroppo il leader, se n'è andato, esatto, un po' di anni fa. Il prossimo pezzo lo dedichiamo a lui e a un altro grandissimo che si chiama Vic Chesnut, anche lui straordinario. Allora citiamo questi famosi dischi da portare su un'isola deserta, facciamo 5 visto che siete in due, facciamo presto, a vostro piacimento. Quando volete partire, Alberto, vuoi partire? Salvo ha detto parti te. Sì, perché ho paura io. Ho più paura. Lui deve studiare. Sì. Beh, io direi appunto 5 sono veramente pochi. Sì, lo so. I primi 5 mi vengono in mente. Blonde on Blonde di Bob Dylan. Quello ti viene in mente perché sì, ha fatto la rivoluzione. E poi non so, tipo Wild di Neil Young and Crazy Horse, perché è un live che racchiude un po' lo Young che preferisco, sì, che è quello elettrico, quello duro, durissimo, quello duro, sì, del 92, credo, sì, 91, certo. 92. I Thin White Trop di In the Spanish Cave, il primo dei Velvet Underground, Nico. Abbiamo già citato, un tutelare per tantissimi, diciamo. Esatto, credo di averne detti. Ah no, i Rolling Stones, direi Beggar's Banquet. E come mai hai scelto Beggar's Banquet di Rolling? Per citare un disco blues, perché ne metterei altri 550. Però mi duole, diciamo, non citare Born to Run di Springsteen, è uno a caso dei Dream Syndicate, che sono tipo... Adesso ti accontento io. Ma ci penso, Salvo. Parlando di Steve Wing, 27, quindi. adesso ti accontento. Vai, Salvo, tocca a te. Allora, io sono preparatissimo. Avevi scritto tutto, sì, perché alla mia età si scrive. Allora, vediamo, questo chi è? Ah, sì. Allora, io lascio stare i pesi massimi, li lascio fuori perché. Allora, Nick Drake, Pink Moon. Ah, è un peso massimo anche lui, però. Anche se non pesava molto come dal punto di vista fisico, ma era un peso massimo, Pink ragazzi. Pink Moon, certamente. Bellissimo. Certamente. I Suicide, il primo. Bello anche quello, sì. Ecco, un disco live come il Live at Rigis dei Dream Syndicate, io non so. Steve Wing, grandissimo Steve Wing. Lì, che tu hai conosciuto. Sì, e poi lì sono... diciamo, io pianto come un vitellino, tanto per usare la frase di un amico comune. Ecco, e poi ci metto Nebraska del boss, sì. E gli Spaceman 3. Ah, bene. Di The Perfect Prescription, che è un disco che io amo molto. No, sei stato uno dei pochi a citare questa band, Spaceman 3. Non sono conosciutissimi, però sono conosciuti da chi ama un determinato genere. Ma io credo che negli anni successivi a quelli, diciamo, della psichedelia cosiddetta canonica, quella degli anni 70, che poi bisogna anche lì approfondire, ma c'è gente molto più preparata di me per parlare di questo, ovviamente. Io penso che loro abbiano dettato un canone inverso, mi viene da dire, un canone inverso, però mettendoci dentro qualcosa di nuovo, facendo tre accordi, tre. Sì. E facendoti innamorare di una cosa che, se anche tu non sapessi che esiste, gli daresti lo stesso nome dei padri che l'hanno inventata. Diresti: ma questo è blues. Ecco, per questo dico, è un disco straordinario. Sì, sì, sono d'accordo. Quindi... sono veramente bravi. È una bella, bella band. Non dico seminale con i Tingle to Rope, però insomma, potrebbe essere anche. Potrebbe, non lo è, però ha avuto dei, non dico dei cloni, ma della gente che ha voluto fare cose simili. Sì, sì, non hanno fatto grandissimi dischi dopo, ma quello è un disco per cui secondo me rimangono nella storia. Certo, non cito i nomi massimi di cui abbiamo parlato, perché ci siete voi a citarli, io cito quelli anche... Mai citato dei nomi importanti, hai citato... Nick Drake, che penso sia il massimo. Se uno vuole imparare una cosa, voi siete chitarristi, sapete benissimo quanto difficoltà è fare un pezzo di Nick Drake. Sì, sì. È molto difficile. Cosa dice Alberto? Sì, no, lui salvo qualcuno lo sa suonare. Ma è difficile. Sì, ma è molto difficile. È molto difficile. Lui aveva un utilizza delle accordature, sì, particolari. Aveva inventato un'accordatura in do. Molto particolare. Un'accordatura, ma è bellissimo quell'accordatura. Ti apre orizzonti nuovi. Sì. Lui era così. Pochi tre dischi per lui, troppo pochi, se n'è andato troppo presto. Però vedi come va il mondo, era quasi sconosciuto in patria, non ha avuto poco successo, stesso Joe Boy non si metteva sempre sulle mani, sui capelli, che l'ha prodotto, che l'ha lanciato, che ha cercato, a proposito con lui suonavano Jerry Conway, suonava Alan Davis, cioè gente di grandissimo livello, che poi ha fatto il successo di Cat Stevens. Dobbiamo ricordare queste robe. La gente, tutti provengono da là, ragazzi. Quindi... caro Maurizio, la gente che è avanti sui tempi ha sempre questa grande difficoltà. Sì. Della serie che se il mondo fosse perfetto, non avremmo probabilmente sta gente che non c'è più. Però è una cosa positiva che con il tempo il successo è cominciato a lievitare, la gente si è vista in questo personaggio meraviglioso e adesso ne parlano tanti. Per questo dico io sempre ai ragazzi delle scuole, non andate ad ascoltare le cose che dopo due giorni non ci spariscono. E noi siamo qua, e noi vecchietti come me, siamo qua per dire ai ragazzi, questa è la roba che dovete... Certo, ma non è nostalgia, è una cosa che rimane, non è una questione di nostalgia. Pink Moon di Nick Drake o anche i dischi precedenti sono cose che devono essere ascoltate. Anche è una ricerca della bellezza. Sì, esattamente. Della bellezza, del saper... sì, la ricerca della bellezza dei suoni, sì, delle atmosfere. E poi se un disco rimane negli anni e resta 40-50 anni come Blonde on Blonde, come... tanti altri dischi che abbiamo nominato, e perché hanno toccato qualcosa o l'hanno toccata in anticipo sui tempi, quindi questo significa che quei dischi hanno questo grande valore, hanno attraversato il loro tempo e arrivano a noi ancora freschissimi, perché Pink Moon, madonna, è così. Beh, tu lo conosci sicuramente, c'è stato un musicista romano che ha rifatto Pink Moon, ha fatto proprio tutto il disco, e ha fatto benissimo, l'ha presentato anche qua, è venuto qua qualche anno fa a presentarlo. È bello riscoprire che gente di tutt'altro tenore musicale, questo aveva iniziato facendo dei pezzi assolutamente da classifica, ha capito che la grandezza di questo musicista è rifatto Pink Moon di Nick Drake. Certo. Adesso facciamo cosa dal vivo, vostre chiaramente. E a proposito di pezzi non vostri, avete scelto una cover, mi pare, adesso. Sì, la mettiamo perché intanto perché un altro grandissimo che ci ha lasciato qualche anno fa sì, è Johnny Cash, anche se il pezzo non è suo. Non importa, è come fosse suo. Però lo ha fatto suo. Esattamente. Come quei grandissimi artisti come Jeff Buckley, che nominavamo qualche tempo fa, che hanno dato hanno coverizzato una canzone che hanno fatto loro. Sono quei rarissimi artisti che fanno diventare la cover loro, e questo è solo grande classe. Anche se Alleluia di Leonard Cohen era un pezzo straordinario. Però Jeff l'ha fatta, l'ha rifatta. Ha preso sta Telecaster che ci dormiamo la notte insieme, chi me la tocca. E quindi facciamo Personal Jesus e la dedichiamo però a Vic Chestnut, grande e al leader degli Sparkle Horse, Mark Linkous. Esatto. One, two, three, four. your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers and someone who's there. I'm feeling unknown and you're all alone now. Flesh and bones by the telephone. Lift up the receiver, and may you a believer. Take second best, put me to the test. Have things on your chest, you need to confess. I will a believer, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Chat and touch faith. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Personal Jesus, riveduta e corretta da Salvo e da Alberto sulla tematica di Johnny Cash, però dobbiamo sottolineare questa. Che Depeche sono grandi, ma Johnny Cash è diventato ancora più grande di Depeche con questo pezzo. E beh, tu lo sai sicuramente, gli ascoltatori forse lo sanno, ma non tutti. Bono, quando ha sentito One di Johnny Cash, ha detto l'ha fatta meglio di me. Quindi, ha detto Bono, quindi direi proprio di sì. Sì, e lì c'è un grandissimo artista. Per questo io ti dicevo prima, microfoni spenti. Io dal boss mi aspetto il Button, l'ultimo disco. Lo so, ma il boss, ragazzi, sì, sono d'accordo con te, ma quando manca un perno essenziale, si chiamava Clarence Clemons. Ma vedrai che farà il Nebraska numero 2 degli anni zero, come usano dire, no? Questi sono gli anni zero, no, adesso sono gli anni visto che parliamo del boss, siamo fuori argomento, però lo cito lo stesso. Qual è il disco del boss che tu ami particolarmente? Escluso Born to Run, che ha iniziato la tua vita musicale. Nebraska. L'ho citato anche fra i cinque perché è il disco, secondo me, della, veramente lì ha attraversato e letto l'America come nessun altro, ci arriva diretto, ma anche questa decadenza, anche questo leggere in anticipo, ecco, un disco è grande così come è grande uno scrittore, così come è grande un regista, quando legge in anticipo e attraversa il proprio tempo lasciandoselo indietro, e magari quando fa il film o fa il disco dicono ma cos'è sta roba, e poi dopo un po' entra nella pancia, colpisce e poi resta nella testa per secoli. Questo è quello che è Nebraska, perché legge gli homeless americani, ci parla degli homeless, ci parla di tante cose che noi vediamo ancora oggi. Per me questo disco è il, il disco del boss. Sì, è il disco del boss. Alberto, te cosa dici? Citerei anch'io Nebraska, anche se prima ho citato Born to Run, quindi alla fine per accontentare tutti dico Darkness on the Edge of Town. Perfetto. Che mi ricorda molte cose. Sì, no, veramente un bellissimo disco, fine anni 70, si respira proprio quell'area lì, e ci sono delle bellissime canzoni. Certamente. Secondo me, veramente. Io per non citare i dischi che avete detto voi, cito un doppio album del boss, che è The River. Non è il doppio, un po' dispersivo, però un pezzo che si chiama Independence Day e quello là vale tutto il doppio album. Gran disco, vale tutto il doppio album. E c'è poco da fare. Sì, è che appunto bisogna sceglierne sì, uno. Sì, una. Io ero indeciso, Maurizio, fra The Rising o l'ultimo. Ok, quello è bello. No, scherzo. Fra The Rising e Nebraska, mamma mia. Per questo ti dico, io mi aspetto che il boss, dal boss faccia il boss. Ma Alberto l'hai visto il concerto l'anno scorso? Io l'ho visto dal vivo negli anni l'hai visto l'anno scorso? Nel 92, nel 93. Quando quante ore faceva? Tre ore, mi ricordo, un tre ore a Roma e un tre ore a Milano. Vedi. Sì, mi ricordo, sì, ho visto quattro volte. Sì. Uno l'ha visto, ha fatto cinque ore, però erano altri anni, si poteva. Guardando anche così vecchi concerti degli anni 70, 76, 77, 78, faceva sempre quelle tre ore lì, ma c'era il doppio dell'energia, ovviamente aveva una certa età anche lui, ma era stratosferico, veramente, cioè, non si poteva non ballare, non essere coinvolti, non muoversi, era puro rock and roll sul palco. Beh, sul palco come loro, come lui, pochi altri, forse gli Stones. Beh. Ecco, gli Stones possiamo utilizzare, cioè, citare quelli, lui ha, io avrei citato Aftermath degli Stones, perché Aftermath è il periodo di Brian Jones, a me piaceva molto Brian Jones, perché è stato messo dalla parte, perché era troppo bello, i troppo belli non andavano d'accordo con l'altro bello, c'è un sacco di discussioni, però dobbiamo citare una cosa, il nome Rolling Stones è stato creato da Brian Jones, è stato lui ad imporre questo nome, poi il produttore ci ha guadagnato, Golden era un vecchio marpione, con i Verve è stato intelligente, il singolo famoso dei Velvet era un piccolo remake di un pezzo di Gold, tutte queste robe qua, però anche quello è importante. Dal vivo come fate muovere la gente, salvo oppure no, quando vi assiste ai vostri concerti? Beh, diciamo che la nostra non è certamente musica da ballo, no, ecco, assolutamente questo, no, e ci piace coglierla con le armi che abbiamo, quelle poche che abbiamo, cerchiamo di farle riflettere sui testi. Fra l'altro la scelta del testo in italiano è ovviamente naturale, ma è anche fortemente voluta, perché qualcuno dice ma perché vista la tua musicalità non provi potevi cantare in inglese? Perché penso che la mia lingua sia questa, è una scelta coraggiosa di esprimermi con la mia lingua se posso, se ci riesco, e quindi per rispondere completamente alla tua domanda cerchiamo di farli, di dare i messaggi dei testi, ovviamente la musica ha la sua grandissima e indispensabile parte, ci mancherebbe, fondamentale parte. Prima di suonare un pezzo ti devo chiedere la copertina, che è molto bella, chi l'ha ideata la copertina? Grazie. La copertina è stata... La puoi descrivere ai nostri ascoltatori? Sì, come no. La copertina è molto semplice, parca, understatement. L'idea me l'ha data un disco che io amo tantissimo, che è quello di Mark Hollis, disco molto semplice. Sì, esattamente. E l'idea della copertina mi è nata da lì. C'è un ometto con una testa che gli scoppia, questo rosso che non si capisce se è un colpo di pennello, se è qualcos'altro. Qualcosa d'altro. E in mano tiene un fiore e poi una cosa che a metà fra il vintage, il tecnologico, vestito con un frac. Questo mi è sembrata Così, un'immagine che potesse descrivere sì. il contenuto del disco. Sì, onirico, come dicevi tu, sì, sicuramente. Però anche che ha i piedi per terra in qualche modo. Sì, possiamo dire questo. Sì, assolutamente. Cosa suoniamo adesso, dopo la cover di Johnny Cash o di Persepolis, a secondo dei punti di vista? No, della serie. Allora, Personal Jesus, per quanto mi riguarda, è della serie come scoprire una band. Grazie a Johnny. E rilasciarla dopo 5 minuti. Beh, sì. Senza questo, naturalmente, i fan di The Depeche non ci mancherebbe. Sì, non ce li facciamo fuori no, così. Assolutamente sì. Ok, cosa suoniamo adesso? Noi abbiamo anche uno in sala che non ci fotografa più, sono qua. Ah, è quello allora. Sì, il prossimo pezzo si intitola Spreco di spazio ed è quello che apre la scaletta del CD. Benissimo. Giorno è un palco deserto, è uno spreco di tempo che riempie lo spazio di nulla, col cranio deforme mi specchio di notte nelle pozzanghere nere di odi e catrame le feste di ieri e l'odore del pane non toccano il petto e nemmeno le vene interrate, bruciate l'amore che ti ho dato. L'amore che ti ho dato, l'amore che ti ho dato, mi ha schiantato, mi ha schiantato. Spreco di tempo ed è uno spreco di spazio, è uno spreco di tempo e di spazio, di spazio. All'orizzonte, è nero all'orizzonte, che non si apre mai. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, sì, dicevo a microfono spento a salvo ad Alberto, e l'avete fatta più cattiva, più tosta, più potente che non... Perché siamo cattivi! Sì, cioè, diversa dalla traccia numero uno del disco, sì. L'avete fatta più... chiaramente dobbiamo sottolineare che durante il pezzo, la traccia numero uno, poi alla fine... si incattivisce, nel senso, sì. C'è una spinta notevole. Qua l'avete fatta tutta la traccia, tutta, da sì. spinta notevole, sì. in questa dimensione ampia. Anche perché con due chitarre acustiche, diciamo, difficile rendere tutta le distorsioni, sì. la psichedelia degli strumenti elettrici, certo. delle sovraincisioni. Abbiamo, diciamo, siamo poveri con due chitarre acustiche, quindi ci dobbiamo arrangiare. Però Jeff Buckley ci insegna che una chitarra acustica è diventata, con Jeff Buckley, una chitarra elettrica, chitarra acida al massimo. Insomma. Grandissimo. Un altro grande che ci siamo dimenticati, Maurizio, è Grant Lee. Grant Lee Buffalo, come no? A proposito, il nostro amico Stefano Deinese, dell'insieme dei nostri collaboratori, che è uno dei più vecchi, con me il più vecchio collaboratore, volerà a Londra per vedere il concerto di Grant Lee. Lui che è un amante... Del generale Grant, ha fatto delle cose meravigliose. Mamma mia. Anche quando faceva il suo gruppo psichedelico iniziale, ti ricordi il suo gruppo? Ha fatto tre dischi praticamente. Sì, in questo momento mi sfugge, era un gran disco di New Wave, di New Wave un po', sì, no? Un po' c'era dentro. C'è proprio tutto. Un gran disco, sì, ma mi sfugge il nome in questo momento. Era una bella band. Come si chiama? Mi sfugge il nome. Pensavo che la band prima era grande. Era grande. Mi sfugge. I Grant Lee Buffalo, quello erano. Sì, Grant Lee Buffalo, sì, sì. Ma ancora prima lui aveva. Aveva prima un'altra band. Io mi riferisco a quello. Io mi riferisco invece ai Grant Lee Buffalo, che adesso si sono riformati proprio per l'occasione, per questo concerto di Londra, dopo tanti anni, sai. L'ultimo disco di Grant Lee l'hai sentito? Sì, di Grant Lee Phillips. Sì, non è mica. Ha fatto sempre le cose interessanti. Molto. Ha avuto qualche momento di calo, però cose che capitano. A me è piaciuto parecchio. E ho visto una. Buried Treasure, il pezzo, diciamo, il singolo di questo ultimo disco suo, l'ho visto fare da lui con la sola chitarra, è fantastico. Ricorda un po' Fassi, un po'. Fassi è un grande disco. E quello è stato un disco che ha venduto abbastanza, nonostante sia stato un disco alternativo. Però l'alternativa della grande major. Anche Jefferson Play all'inizio facevano gli alternativi, da milioni di copie, però gli alternativi. All'epoca. Ma erano altri tempi. Erano un po' tutti alternativi. Sì, esattamente. In qualche modo. Ho letto su una recensione del Buscadero che il Buscadero ha adombrato che il titolo tu l'abbia sentito, visto da un pezzo da un disco di Luigi Tenco. Se cosa dici? Ma ecco, ci sono recensioni che leggi e dici Tenco. Hai qualche rapporto musicale con Tenco? L'unico rapporto che ho è che ho fatto un pezzo facendo cantare una sposa che è diventata la moglie di mio nipote, e che gli piaceva Tenco. E l'unico rapporto che ho avuto con Tenco è quello, a parte, diciamo, la frequentazione di conoscenza incontri usualmente, ma al di là di quello no, non l'ho mai frequentato. Io amo molto Piero Ciampi, questo sì. Sono d'accordo con te. Amo Ciampi per tutta una serie di cose che senz'altro sappiamo. Sono più vicine a te, bravo, sicuramente. Però devo dire una cosa. L'inizio di carriera, Tenco aveva scritto dei pezzi che non so se erano vicini a Piero Ciampi. Piero Ciampi, anche lui, che Piero Ciampi ha sempre fatto dei pezzi molto particolari. Anche Tenco li faceva all'inizio di carriera. Dopo tutti lo ricordano per Ciao Amore Ciao, che Ciao Amore Ciao non era il titolo, era un pezzo difficile che poi è stato rimesso per Sanremo, ma non era mica semplice, doveva essere molto più forte. Chiaramente, sai, Sanremo dura 3 minuti scarsi, doveva essere così. Sì, io devo ammettere le mie colpe, sì, lo ammetto. Cioè, quella non è mica una colpa. No, lo so, scherzo, nel senso che, ecco, quella parte della musica italiana che negli anni 60 mi sfugge, la affronterò un giorno. Ma la scuola genovese non ti è... Come no, la scuola genovese, ma anche degli chansonnier, come no. Quella mi prende, però devo approfondirla, perché come dicevamo prima, ci vuole molto tempo, certo. soprattutto per ascoltare con la maiuscola. Esattamente, per ascoltare con la maiuscola. Un'altra particolarità che ho letto sempre in altre recensioni, ti hanno avvicinato, e qua siete d'accordo con me, perché io Ricamisasca hai sentito la finestra dentro. Sì. Disco molto, che si avvicina come atmosfere. Sì, devo dire di sì. Neanche lo conoscevo, Pasini mi ha accostato a lui. Pasini, che è l'autore dell'articolo sul Mucchio Selvaggio, sì, chiaramente. Esatto, della recensione del Mucchio. Pasini mi ha accostato a lui e io devo dire l'ho scoperto grazie a lui, e poi ho approfondito, anche tu mi hai detto che secondo te è così, e quindi io ne prendo atto, ed effettivamente in qualche cosa che ho sentito sì. E qualcun altro, poi finiamo questi piccoli collegamenti con Cesare Basile. Cesare Basile, sì, posso essere d'accordo, anche non so Alberto se tu sei assolutamente d'accordo. Cesare Basile è l'atmosfera che conta di Basile, anche il modo di cantare, non dico che sia uguale al tuo, però il modo di atteggiarsi, di cantare, di prendere la canzone e trasformarla con una certa grinta, oscura grinta, perché Basile è oscuro, certo, è nero, dark nel senso positivo. Certo. Ma diciamo che tanto probabilmente la terra un po' forse c'entra, essendo siciliani entrambi, ma io non ci credo a queste cose, ovviamente c'entrano altre cose, è un modo di dire per buttarla lì, per fare la buttata. Però diciamo che se c'è un comune, almeno per quanto mi riguarda, Cesare Basile è un grande artista, io non posso certamente minimamente accostarmi a lui come qualità d'artista, non credo. Però ecco, sì, mi ci sento affine a lui, ed è uno degli artisti italiani che io ammiro di più, perché è un artista troppo poco apprezzato, secondo me. È un grande produttore, anche. Ha dato tanta linfa alla nuova all'italiano, è stato lui che ha dato una mano a molte band giovanili. John Parish lo ama. John Parish, un altro guru, follia, possiamo dire guru. Lo ama senz'altro, ama lavorare con Cesare Basile. Benissimo, sono le 23:34, io proporrei un pezzo da disco, così vi riposate un secondo, abbiamo parlato abbastanza. Mi pare che ci sia la traccia numero 7, è vero? È la traccia numero 7. Grazie. Ok, la sentiamo e ne parliamo dopo, cosa dici? Annullami. Sì? La traccia numero 7 è Annullami. Esattamente, Annullami, ok. Se potessi rimanere ancora un poco qui vicino a me, appoggiare la tua mano lentamente sopra la mia schiena. Bianca di latte, pallida di morte, ma i vivi sono capovolto. Stringi forte la mia mano, se lo vuoi, non sono nato mai, non c'è niente, non c'è nulla, se mi Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo, siamo sempre in diretta, 23.37, parliamo un momento di questo pezzo, Salvo, che abbiamo... Ecco, ovviamente un artista sbaglia i propri titoli, era Capovolti, succede. Capita, capita. Non mi date da bere qua, che posso sì. fare? Ho la gola, ho un tappeto persiano in gola, dice il mio amico, un topo morto qua. Allora, il pezzo è Capovolti, ed è un pezzo che in realtà esiste da... quasi 8 anni, l'abbiamo quindi, anche sì, a una certa età, insomma. Sì, a una certa età l'abbiamo eseguito con Alberto, anche l'abbiamo registrato nella nostra formazione precedente, e nel nostro progetto laterale, diciamo così, e che non è ancora citato. Come si chiama il progetto laterale? Il progetto laterale ci chiamavamo prima Noi Bass, poi Formelese, e adesso abbiamo un altro progetto laterale, Man in the Long Black Cut, che ci divertiamo a fare gli americani. Non siamo mica gli americani, sarà un disco di Vasco Rossi. E questo ha preso una strada molto diversa. Antonio ha detto: no, andiamo dalle parti del deserto qua. E quindi abbiamo messo ste chitarre così battute più che suonate. Sì, esattamente. Ed è un pezzo tipo percussivo. Per me è una storia d'amore. Qualcuno mi ha detto: sei malato. Se le storie d'amore sono così, sei malato. Probabilmente così. Questa è l'idea di pezzo, è così, insomma, si è sviluppato, sì, così. È questo. Benissimo, 23:38, adesso suoniamo. Abbiamo deciso cosa, Salvo, di suonare. Adesso è un pezzo che io scrissi ispirato dai fatti di Novi Ligure, se ricordi. Sì, certo. Il massacro di questa ragazzina dodicenne col suo amichetto, sì, che mi colpì moltissimo. A Novi Ligure uccise la madre e il fratellino, perché cosa non ho capito. Ecco, questo male di vivere, questa cosa che distrugge una famiglia e che ti fa uccidere e ammazzare anche il fratellino. Che io, sì. I fatti di ammazzamenti di madre da parte di figli o figlie era successo, ci eravamo abituati. Tra virgolette, sì, esattamente, si può dire così. Ma quella di uccidere anche il fratellino è un po' come voler dare un colpo di spugna. Sì, cancellare tutto. Ecco, e questa cosa mi è rimasta dentro e ci ho scritto un pezzo sopra. Formelese. One, two, three, four. Nella pelle per non vedere che mi stai facendo a pezzi e so che ne farai. Guardi, ridi e penso che li venderai, distendi dolcemente corpo accanto al mio, nebbiosa lenta notte che scivolerà sul liquido e formelese di piombo o forse tese, mami, mi libererai, mami, mi libererai. Mami, mami, mami, oh no, yeah. Paghi nella pelle per non vedere che mi stai facendo a pezzi e so che ne farai. Guardi, ridi e penso che li perderai, distendi dolcemente il corpo accanto al mio, nebbiosa lenta notte forme lese di piombo o forse tese. Mani mi libererai, mami mi libererò, mami, mami, mami, oh no. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Si state ascoltando la musica di Salvo e di Alberto e come dicevo a microfono spento, ha sudato molto Salvo, anche Alberto, a fare sto pezzo che è molto veloce, ma veloce, ritico, incalzante, ipnotico, possiamo dire questo. E vuol dire c'è sofferenza. È punk, e poteva essere anche punk, perché certo, no? Certo. Assolutamente punk. Il punk è sofferenza. Certo. Un 3 minuti, 2 minuti, tac, immediati. E questo era il pezzo. Oltre a un testo che abbiamo ricordato, molto importante, che ricordava un tragico evento, però è il pezzo che era velocizzato al massimo, anche qua in dimensione unplugged, è una cosa positiva secondo me. Che sì, dimmi. Vuole mutuare il senso della velocità delle cose che ti prendono a volte senza che tu possa riflettere, secondo me questo è successo in questo evento, come un treno che ti arriva, quindi il fatto che sia percussivo, che appunto il blues lo è, il punk lo è, serve proprio a sottolineare questa dimensione. Certo, sono decisamente d'accordo. Ed è così, e doveva essere così. E dobbiamo ricordare che l'unplugged non è una cosa semplice, fare l'unplugged. C'è chi dice che l'unplugged è più facile della chitarra elettrica, ma non è vero, secondo me. È tutto difficile, si vuole far bene le cose. Certo. No, cosa dice Alberto? Sì, bisogna un po' impegnarsi, insomma. Esattamente. Sono due modi diversi di suonare, però si può rendere anche... appunto con due chitarre acustiche, anche con una chitarra acustica si può fare veramente anche del punk, sì, insomma. O si può andare talmente in profondità come ha fatto Nick Drake, sì, o come ha fatto Robert Johnson, come facevano i bluesmen del Delta, avevano un pezzo di legno con delle corde e suonavano, andavano e scavavano veramente la fossa. Esattamente. Un altro disco, dimmi, che io amo è quello dei Bachi da Pietra. Sì, volevo proprio citare, tu hai collaborato, ci siete trovati sul palco. Ci siamo trovati, ho avuto il piacere di conoscere sia Gianbeppe Succi che Bruno Dorella, che sono due grandissimi personaggi. Gianbeppe Succi è uno degli scrittori più intensi che ci siano nella scena italiana, e se della serie, come dicevamo prima, il mondo fosse perfetto, dovrebbe avere molti più spazi. Detto questo, li amo molto per il modo che hanno proprio di intendere la musica ancestrale, dalla pancia, dalle budella, anche Gianbeppe usa delle accordature stranissime, mi ha insegnato che accordatura fa, ma non ve la dico, se no poi Alberto me la prende, me la ruba, e quindi questo modo percussivo che ha anche lui di suonare mi piace molto. Si possiamo dire che i dischi dei Bacco di Appetite sono dischi estremi nel senso positivo del termine, cioè senza mezzi termini, certo, quello è, certo, e basta, certo, non ci sono discussioni. Ma lo era anche con i Madrigali Magri, sì, anche quello, Gianbeppe, sì, ha fatto 3 dischi fantastici, il primo Lische, poi è arrivato anche qua, Negerville, esattamente, sì, anche Negerville era fantastico, insomma è un grandissimo personaggio, io lo stimo molto, stimo entrambi moltissimo, poi sono due persone straordinarie. E poi sono una cosa che possiamo sottolineare, sono indipendenti, proprio indipendenti da tutto, sì, E quello è proprio free, come parlavamo l'altro giorno, del free, della libertà totale di fare quello che si sente di fare. Che di questi tempi è abbastanza difficile. Difficile, ancora più difficile. Esattamente. Solito, e allora ritorniamo alla domanda che hanno fatto a Salvo: perché ti sei autoprodotto il disco? Ecco, quello è il motivo. Ma la prima, guarda, ti rispondo esattamente come, perché è così che penso. Se fosse sarebbe, si dice, giusto? Tu che sì, se sarebbe venuto trapassato condizionale. Se fosse venuto un produttore a dirmi, guarda, un'etichetta a dirmi, guarda, tu esci con noi, però il disco lo devi fare così, io non ci sarei stato, te lo giuro. Sì, sì, se capito. Un produttore mi avesse detto esci con noi, fai quello che vuoi subito, ma non l'ho trovato. E quindi mi sono autoprodotto per questo, ma di necessità ne abbiamo fatto virtù, perché abbiamo fatto, tu giustamente hai notato nel disco quando sono arrivato, mi hai detto una cosa che non ha detto nessuno e che io ritengo sia giustissima. Ci sono tante cose dentro qua, è vero. Nel disco ci sono tante cose, probabilmente un produttore o una casa discografica avrebbe detto no, che tagliamo qua, facciamo di là, un pezzo di 9 minuti scritto in non italiano. Non sarebbe stato accettato. Scritto in italiano non so quanta gente c'è che può farlo quando ha un'etichetta alle spalle. O Gianbeppe Succi ha un produttore, una casa discografica, la Wallace di Mirko Spinos, che è un grandissimo personaggio, ecco, magari avessi alle spalle qualcuno così. Potevano fare un tuo grande, cioè uno che ami particolarmente, di Massimo Volume, potevano farlo. Ah, Madonna. Ecco, Elio Clementi poteva fare una cosa di quel genere. Fra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo a Bologna in una libreria, ho fatto un'intervista per una rivista di Antonio Gramentieri, Gagarin, Orbita Culturale, che è una bellissima rivista che fa cultura dell'Emilia, della Romagna, Faenza. E ho avuto il piacere di conoscerlo. Ennio Clementi è un personaggio. Emidio Clementi è davvero un gran personaggio. Sì, cioè declama e non mica semplice declamare. E poi sotto c'è quel popolo di Roma. Certo, Madonna. C'è un gruppo incredibile. 23:49, facciamo un altro pezzo live. Questo è un pezzo molto lungo, molto interessante. Sì. Complesso. Questo è tratto da dal mio autore preferito, da una raccolta di storie, Vivere stanca proprio, io gli ho rubato proprio il titolo, Vivere ci stanca, di Jean-Claude Izzo. E sono 5 storie messe in 5 strofe e noi proveremo a farlo stasera con le nostre chitarre a 4 corde e mezzo. E con l'armonica. E con l'armonica. Esattamente. Del dottore maestro bomber Alberto Mancinelli. Okay. One, two, three, four. Parlami del mare che non ho visto mai. Avvoltoi che aspettano in volo circolare. A Kim che butta il fuoco nelle vene. Ma il braccio è un legno vecchio da bruciare. Scorre lento il tempo per crepare, ma scorre lento il tempo per crepare. Ho visto da lontano sparargli dritto in fronte, sul viso pesto a sangue, dritto nella testa. Tua madre è l'inferno che ci fotte. Madre senza un nome, senza un posto, dove pregare un Dio da odiare. Dove è pregare un Dio da odiare. Parlami del mare che non ho visto mai. Parlami di Marion, di amori e marinai. Ubriachi sopra un molo ad aspettare uno sparo e Leo che cade senza fretta. Ma vivere mi stanca, sembra dire. Vivere mi stanca, sembra dire. Parlami del mare che non ho visto mai. Parlami di Helen, dei suoi capelli al vento. Il mantello grigio e quel coltello cava la sua carne di bambina. Chiedere perdono per Natale. Stanca il vento freddo di Natale. Cenere sospesa sopra alberi volanti. Cenere sniffata da padri nauseabondi. Sospinti verso un punto dove è morto questo deserto liquido è la mia casa. Vivere ci stanca, ci stanca. Vivere ci stanca, ci stanca. Vivere ci stanca, ci stanca. Vivere ci stanca, ci stanca. Yeah, yeah. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, posso dire, questo è un pezzo bellissimo, una ballatona di quasi 8 minuti. forse sarà anche Stelle e Strisce, ma è stata scritta da Alberto e da Salvo, è quello importante. No, scritta da Salvo. Ma è stata scritta da Salvo. Sua, la... Io gli do, faccio da badante. Ah, ok, gli fai da badante. Salvo, ricordiamo il tuo sito, ricordiamo dove possiamo, se uno vuole avere fisicamente il disco. Allora, il disco può, c'è il sito salvoruolo.it, c'è, lo stiamo costruendo ancora, ma sarà quasi finito prossima settimana, spero, dove c'è appunto la possibilità di richiedere il CD, oppure anche su Facebook, insomma, sì, mi può richiedere e glielo spedisco io direttamente. Perfetto. I tuoi prossimi concerti, oltre a quello di sabato che hai citato? Io adesso dovrò star fermo un paio di mesi, e quindi l'ultima data sarà questa, poi riprenderò a ottobre, spero, se il dito... Sì, il dito è un po' in difficoltà. Il tendine rotto del pollice, sono da un paio di mesi con il tendine rotto, e il 25, il sabato, saremo al... 16 luglio anche. Sì, ah già, abbiamo due date, il 25 e il 6, allora il 25 giugno, sabato questo, siamo al Midi Caffè a Carbonera, io e Alberto, dove attraverseremo in maniera storta, un po' con qualche pezzo anche storto, in maniera sbieca la nostra musica. Sbilenca. Esattamente. Ci sa anche il tuo allievo. Sì, assolutamente, c'è questo ragazzo che suona la chitarra, che il grande Enrico Muscardin, che perfetto, ha 12 anni. E poi giorno 16, ancora sempre con Alberto, replicheremo questo special al Mini Caffè, che hanno voluto che facessimo due date, bontà loro. E poi riprendo a ottobre con la band mia, con Antonio e Diego, siamo in zona, si sta organizzando una piccola tournée, ci sono già 3-4 date pronte, ma sarà tutto scritto sul sito. E il disco nuovo che è in preparazione, qualcosa c'è, c'è già fatto? Sì, sì, ci sono più canzoni che possano, forse per un doppio. Però io adesso starò fermo, dopo il 16 luglio, sì, starò fermo sicuramente 2-3 mesi con la mano, però con l'altra mano la possibilità di scrivere, sì, per cui termino i pezzi e lì, dove andremo non lo so, Maurizio, con l'altro disco, l'idea non lo so, sai, mi è sempre piaciuto fare un disco così come noi stiamo facendo stasera sta trasmissione, seduti in 3-4 in maniera acustica, un po' come si faceva una volta, ma anche che dal disco traspaia quel calore che spesso e volentieri i dischi non hanno. Nel 63 Dylan parlava di Blowing the Wind, potremmo andare anche nel vento anche noi, cosa dici? Ma noi ci proviamo. Ci proviamo. Poi questi tal maestri, Dio boh. Esattamente, i maestri sono essenziali. Rischiamo di affogare, però ci andiamo dietro. Sono esattamente 3:03, abbiamo finito questa cavalcata meravigliosa con il disco di Salvo, Vivere ci stanca, un bel disco che abbiamo sentito, che possiamo richiedere, anche i concerti, Salvo, chiaramente. Ah, naturalmente. I concerti... quel famoso il pacchettino che ci usiamo una volta. Assolutamente, soprattutto ai concerti, anche perché i dischi ormai... Non si vendono, si vendono molto. A parte qualcuno che sta attento ancora alle recensioni, ho dovuto spedire un paio di dischi a Boston, un altro. Ah, però. Sì, un italiano che è un altro a Los Angeles, non te l'avevo detto. Ho dovuto spedire due li ho venduti negli Stati Uniti. Conquisteremo gli Stati Uniti da due. Si comincia con uno, con due passi. Appunto. Passo dopo, ci vuole pazienza. Grazie allora a Salvo ed Alberto, grazie anche a Roberto che ha partecipato, anche se non ha parlato, ha partecipato al tutto. Con cosa ci salutiamo stasera? Prima di salutare, volevo salutare intanto Alberto Prisco, che sì, il nostro direttore artistico, è stato lui che ha voluto te stasera qua. Grazie, ringrazierei ancora il mio amico Davide Tosques e li abbraccio entrambi. E stasera chiudiamo con un pezzo, diciamo, molto allegro, che fa ballare, si intitola Depurazione. E quindi chiudiamo con questo, saluto tutti, ringrazio te Maurizio che sei stato veramente un ottimo padrone di casa, ringrazio il regista, grazie a Michele, regista, che fa il suo sporco lavoro, esattamente, grazie a tutti voi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti voi, domani ci sarà un altro appuntamento live con Agostino Spolaore, Ginny Gandolfi, che è una ragazza mantovana, verrà a proporre la sua musica domani sera dalle 21 alle 22:30. Grazie e buonanotte a tutti, adesso sentiamo Salvo e Alberto. Questa è Depurazione. epurazione lenta. In questa stanza buia di mercurio liquido e di marmo bianco, terra di scorpioni che premono da dentro, anfetamine e bisturi, ma l'attenzione cresce e conficco nella carne fradicia di umori, la voglia è consumata e sciolta nella pioggia, dentro al letto sporco di vomito e di sangue, rappreso tra le dita e contratte dal dolore. Curazione lenta è una guerra di confine, depurazione lenta è posarsi e riposare nella terra, depurazione lenta è una guerra di confine. Depurazione lenta è posarsi e riposare nella terra. Depurazione lenta è una guerra di confine. Depurazione lenta è posarsi e riposare nella terra.